Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Attenzione, il programma che sta per andare in onda contiene fellazio, cunnilingus, masturbazione, feci, urina, sadomasochismo, Bruno Vespa e qualsiasi altra cosa la fetida mente di Daniele Luttazzi abbia fermentato in quest'ultimo periodo. Il suo linguaggio esplicito è fatto apposta per turbare gli imbecilli. A tutti gli altri, buon divertimento. Un incipit irriverente, ai limiti dell'offensivo. Questo è lo stile che caratterizza la comicità perfida e surreale di Daniele Luttazzi. Uno stile che divide, che appassiona o in egual misura indigna, che ha smosso gli interessi dell'opinione pubblica così come quelli di svariati uomini politici. Il programma di cui avete appena ascoltato la breve ma incisiva introduzione si intitola Satiricon ed è andato in onda su Rai 2 fra il gennaio e l'aprile del 2001. 12 puntate corrosive che hanno toccato punte di ascolti impensate per quel tipo di trasmissione e per la fascia oraria in cui era collocata, ovvero quella della seconda serata. E ora un equivoco ruffiano. Piano cretinetti, Daniele Luttazzi! Buonasera, come va? Molto gentili, grazie. Basta così, grazie. Se avessi incontrato 10 anni fa, a quest'ora sarei famoso. Benvenuti a Satiricon, lo show che era dentro il mio corpo e spingeva per uscire. Dopo la consueta caustica introduzione, Luttazzi passa in rassegna gli ospiti della serata. Li accoglie uno alla volta e li intervista restando seduto dietro a una scrivania, spesso girato di tre quarti, sorseggiando distrattamente una tazza di caffè. Questo specifico momento, quello del conduttore a mezzo busto che conversa spiritosamente con altri attori e attrici, filosofi, sportivi o cantanti, è quello che più di ogni altro caratterizza il genere di provenienza. Il talk show notturno nato negli Stati Uniti negli anni 50 grazie all'intuito del geniale mattatore Steve Allen. Luttazzi, piaccia o meno, è forse stato l'unico nostro connazionale a tentare l'importazione di un così celebre modello. Un modello che in America attualmente è incarnato da svariate trasmissioni concorrenti in onda tutte alla stessa ora sui diversi network nazionali. Tra queste, la più longeva e famosa è targata CBS e prende il nome dal suo ormai leggendario conduttore. Dal celeberrimo Ed Sullivan Theater di New York City, situato a Manhattan, sull'ancor più famosa Broadway, lo stesso teatro che ospitò le grandiose performance di artisti tra cui Elvis Presley e i Beatles, da ormai 30 anni viene trasmesso lo show di cui avete appena sentito il nome. Un nome che è tutto incentrato su quello del proprio, insostituibile conduttore. È lui a costituirne il fulcro e l'ossatura. È suo il corpo attorno al quale imbastire le misure di una trasmissione che è paragonabile a un vestito di taglio sartoriale. Il lui di cui stiamo parlando, naturalmente, è David Letterman. David Letterman. Ormai abbiamo imparato a riconoscere la voce squillante di David Letterman, superando perfino l'oggettiva barriera linguistica che per molti di noi divide ancora l'italiano dall'inglese. Lo spumeggiante inizio di ogni suo show ci traghetta in un mondo diverso da quello cui siamo abituati e in un modo di fare spettacolo lontano dai canoni cui il piccolo schermo nostrano ci ha abituati nel corso dei decenni. Un buon talk show notturno può avere grandi ospiti e magari grandi scoop, ma non è nulla senza un buon conduttore. A dirlo, non è certo un uomo qualunque. Quel che conta è chi sta seduto dietro alla scrivania. La questione sta tutto lì. La voce che avete appena sentito è quella di Johnny Carson, storico conduttore del Tonight Show starring Johnny Carson, andato in onda ininterrottamente per 30 anni dal 1962 al 1992. Può darsi che Carson, pronunciando queste parole, parlasse di se stesso, ma potrebbe anche darsi che stesse riferendosi proprio a David Letterman, uno dei suoi pupilli, uno dei giovani comici cresciuti nella palestra del suo show e diventati in breve tempo tanto bravi da riuscire a stare in piedi sulle proprie gambe. O forse sarebbe più corretto in questo caso parlare di giovani così intraprendenti da aver messo da soli le gambe dietro all'imponente, metaforicamente parlando, scrivania di un late show. Dopo un po' di anni, caro mio Dave, ti accorgerai che questo è l'unico modo che hai di rapportarti con le persone, da dietro una scrivania. Ieri sera sono andato al ristorante e avevo la mia scrivania. Vado a casa ogni sera dopo lo show e mi porto la mia scrivania anche in camera da letto. Neanche lì riesco a combinare niente di buono se non ho la scrivania. Johnny Carson ci scherza su, ma quello del conduttore di talk show notturni è un mestiere che pochi sarebbero in grado di fare con successo. Ci vuole la giusta dose di passione, costanza, incoscienza, unite a una verve innata e a una simpatia graffiante. Queste doti, insieme all'immancabile autoironia, non si acquistano tanto con l'esercizio. È molto meglio avere la fortuna di possederle fin da piccoli. C'è una leggenda che racconta che David Letterman abbia deciso di nascere alle 9 di sera, nel prime time, l'orario di punta classico della televisione, quello in cui tutti i canali di tutto il mondo fanno a gara a sparare le loro cartucce migliori. Quello che è certo è che David Michael Letterman nasce il 12 aprile 1947 nella città di Indianapolis, capitale dello stato dell'Indiana. Suo padre fa il fiorista e lui da ragazzino cerca di aiutarlo quando può. Chiunque in vita sua abbia visto un film targato USA ha presente la figura dai tratti mitici del delivery boy, il giovanotto delle consegne, che lancia i giornali arrotolati sui pianerottoli delle casette americane, le tipiche abitazioni col praticello davanti e lo steccato bianco intorno. Ecco, David era uno di loro, solo che le piante, per fortuna, non le lanciava. A Natale aiutavo sempre mio padre con le consegne. Portavo le stelle di Natale nelle case dei suoi clienti. A volte non erano in casa e lasciavo le piante sul pianerottolo o in veranda. Nel giro di un'ora, col freddo che faceva, si sarebbero certamente trasformate in meravigliose statue di ghiaccio. Altro che fiori. Fin da piccolo David ha un senso dello humor spiccato, qualità che ha ereditato proprio dal padre. Quando è fra la gente, sciorina sempre una raffica di battute e alle feste attira inevitabilmente l'attenzione su di sé. Lo stesso avviene a scuola, dove i compagni adorano la sua compagnia. È quasi automatico che la sua carriera inizi proprio fra i corridoi del dormitorio della Ball State University di Muncie, in Indiana. La WBST, piccola emittente che ora è diventata parte della Indiana Public Radio, all'epoca in cui ci lavora David, trasmette principalmente musica classica. Il giovane non sempre tratta le ouverture a base di fiati e archi col rispetto che queste meriterebbero. L'irriverenza del giovane Letterman è insieme croce e delizia. Gli fa perdere il posto alla radio in cui lavora, ma al contempo gli apre le porte di altre trasmissioni e lo fa avvicinare alla TV. David è ispirato dal Paul Dixon Show, spumeggiante spettacolo di varietà in onda sulla WLWT Television. Guardandolo, David capisce che il suo futuro sarà sul piccolo schermo e ogni chance va colta al volo. Ho iniziato leggendo le notizie del meteo. Lo facevo a modo mio ed era in tutta franchezza un modo piuttosto surreale. Quando stava per arrivare una tempesta tropicale, io le davo il benvenuto e i miei capi a volte non la prendevano benissimo. Letterman minimizza, ma quello che è successo merita una spiegazione. Di fatto, il giovane spavaldo Dave non si limita a dare il benvenuto a una tempesta. Si congratula con lei per la sua promozione da violento fenomeno temporalesco di origine tropicale a uragano accompagnato da venti fortissimi e fenomeni di grandine della dimensione di prosciutti. E non è finita. Mandato a fare l'inviato della 500 miglia di Indianapolis nel 1971, Dave si rivolge a un corridore appena uscito di gara a causa di un incidente chiedendogli: «Allora, com'era il traffico?» L'umorismo di Dave è incontenibile. Su consiglio di amici e parenti, nel 1975 si trasferisce a Los Angeles per tentare la carriera come autore comico. Scrivere battute gli viene naturale come respirare, e intanto si allena anche a dirle, oltre che a metterle su carta. Inizia a frequentare il famoso Comedy Store, vera e propria palestra per comici ancora sconosciuti, situata al numero 8433 di Sunset Boulevard. Beh, si andava al Comedy Store praticamente tutte le sere e vedevi sempre questa gente che stava lì, proprio come te, a dibattersi forsennatamente alla ricerca della propria identità. In qualunque mestiere, anche in quelli cosiddetti artistici, si affronta sempre un processo che inizia con l'imitazione di qualcuno usi quel che ha scritto, detto, fatto qualcun altro come strumento per tirare fuori qualcosa di tuo. Schiere di giovani talenti comici si avvicendano ogni sera sulle assi del palco del Comedy Store. Stanno nudi di fronte al loro pubblico, quasi disarmati, in assenza della cosiddetta quarta parete, che di norma divide e in qualche modo protegge chi sta sopra da chi sta sotto un palcoscenico. Sono giovani promesse che stanno dritte a declamare battute e a sciorinare commenti sarcastici sulla vita di ogni giorno, sulle piccole cose, così come sui massimi sistemi. La platea ride, applaude, fischia, rumoreggia o sta in silenzio. Loro incassano stoici, restando rigorosamente in piedi. Questa è la stand-up comedy. Tra i giovani aspiranti comici che inseguono il successo esibendosi un quarto d'ora ciascuno sul palcoscenico del Comedy Store sul Sunset Strip di Los Angeles, non solo c'è David Letterman, ma anche l'uomo che un giorno è destinato a diventare il suo più acerrimo nemico e concorrente. Una sera ho visto salire sul palco un giovanotto, si chiamava Jay Leno. Era un comico che bazzicava dalle parti di Boston e New York. Quando ha iniziato il suo pezzo, ho pensato che avrei anche potuto andarmene a casa. Nel senso di andarmene a casa, non tornare mai più, cambiare proprio mestiere. Era bravissimo, una vera forza della natura. Aveva i tempi e i modi giusti per fare battute. E io ho pensato, è così che si fa. Mi sono reso conto che anch'io stavo imparando qualcosa da lui. Il giovanotto che David Letterman guarda con tanta ammirazione, addirittura con spirito di emulazione, ha giusto 3 anni meno di lui. È un grosso faccione simpatico. Si chiama Jay Leno. Jay Leno. Letterman e Leno diventano subito amici. Chiacchierano per ore, sparando battute a raffica, smentendo il luogo comune secondo il quale i comici, al di fuori dello spazio della performance artistica, sono persone tristi e taciturne. Si avvicendano sul palcoscenico e si spalleggiano al di fuori di esso, facendosi forza l'uno con l'altro. A Dave le cose vanno un po' meglio che all'amico. Ha già scritto diverse volte per la TV e nella seconda metà degli anni 70 partecipa sia nelle vesti di autore che in quelle di ospite a svariati programmi televisivi, tra cui anche il celebre The Gong Show. Ha persino fatto una comparsata in una puntata della serie Mork & Mindy, surreale sitcom con un giovanissimo Robin Williams nelle vesti dell'alieno venuto su un uovo da Ork. Il suo talento istrionico, però, si esprime al meglio di fronte a un pubblico in carne ed ossa, come quello che spesso lo vede esibirsi al Comedy Store. La settimana scorsa ho letto un articolo incredibile sul National Enquirer. Si intitolava «Come perdere peso senza dieta o esercizio fisico». E come fai? Beh, l'unica possibilità che resta è la malattia. Ehi, sono riuscito a perdere 30 kg senza muovere un dito. Qual è il mio segreto? Beh, ho avuto l'incredibile fortuna di essere stato gravemente ammalato per 1 anno e mezzo. Niente male, no? L'umorismo secco, asciutto e spesso caustico di Letterman non può non attirare l'attenzione degli addetti ai lavori. Appena i talent scout del Tonight Show starring Johnny Carson lo notano, capiscono che si tratta di un soggetto da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo. È così che David Letterman inizia a fare le sue apparizioni nel celebre show targato NBC fino a diventarne un graditissimo ospite fisso. Letterman è entusiasta. Lui, oltretutto, è un fan accanito dello spettacolo di Carson fin dai suoi albori nell'ormai lontano 1962. È proprio Carson in persona a ricordare quei primissimi momenti della carriera televisiva di Letterman. Io mi ricordo perfettamente la prima volta che sei stato qui. Hai iniziato facendo una battuta sul fatto che quando ti lavi i denti, a volte il dentifricio ti cade nel lavandino e si incrosta sulla ceramica. Se poi lo stacchi, puoi metterlo via in una scatolina e usarlo più tardi come fossero delle mentine. Se la carriera di Letterman sembra già lanciata verso lidi assai promettenti, a Jay Leno capita ancora di dormire sui sedili della sua automobile parcheggiata su Sunset Boulevard, proprio fuori dall'ingresso del Comedy Store. L'amico David gli viene in aiuto. Ora conosce un po' di gente alla NBC e fa in modo che Carson si accorga anche del talento di Jay. È così che nel 1977 Leno fa a sua volta la prima apparizione al Tonight Show di Johnny Carson. Il suo aspetto è quello di un timido capellone vestito con un assurdo completo verde salvia, con tanto di gilet in tinta e cravatta dai colori francamente indecifrabili. I'm glad that you're all in a good mood tonight because it's always a pleasure to... È sempre un piacere introdurre un nuovo comico qui al Tonight Show. Lui si chiama Jay Leno e questa è la sua prima volta su questo palcoscenico. Quest'anno, oltretutto, farà anche il suo debutto sul grande schermo in un film insieme a Michael Caine. Niente male, no? Diamo il benvenuto a Jay Leno. Jay! Jay Leno. Jay! Thank you. I'm originally from the United States. Any United States people here tonight? What a small world. Isn't that funny, no matter where you're from? Jay Leno non ha ancora troppa dimestichezza col mezzo televisivo, né tantomeno coi milioni di telespettatori che stanno dall'altra parte del vetro di fronte al quale si esibisce. La sua parlantina, tuttavia, imparerà a sciogliersi molto in fretta, consentendogli di ritentare con successo la fortuna sul piccolo schermo. Il suo amico David, intanto, è diventato ospite fisso proprio nello show notturno di Johnny Carson. Dal celebre conduttore, Letterman sta imparando ogni trucco del mestiere, nella speranza un giorno o l'altro di avere uno show tutto suo, proprio come quello del suo idolo. Lui mandava avanti la baracca. Lui era la baracca. Quando entrava in scena, i lampadari tremavano per la soggezione. All'ombra del gigante Johnny Carson, due giovani comici cercano la propria strada per il successo. David Letterman e Jay Leno sono amici, vanno d'amore e d'accordo, si aiutano a vicenda. Uno dei due, Letterman, sembra già destinato a prevalere, ma la partita, l'altro lo sa bene, è ancora tutta da giocare. You gotta keep them separated. Destini incrociati. Destini incrociati a Los Angeles, dove la carriera di David Letterman ha ormai spiccato il volo. Già ospite fisso del Tonight Show starring Johnny Carson, nel 1980 la NBC gli affida uno show tutto suo, che porta addirittura il suo nome, il David Letterman Show. Iniziato il 23 giugno 1980 in fascia mattutina, con puntate quotidiane della durata di 90 minuti, già ad agosto la trasmissione viene ridotta a 60 minuti, per poi venire definitivamente cancellata in ottobre. Se le logiche strettamente commerciali dei network americani non guardano in faccia a nulla e non tollerano dati d'ascolto ritenuti insoddisfacenti, la critica la pensa assai diversamente. Il morning show di Letterman quell'anno si aggiudica ben due Emmy Awards, i prestigiosi Oscar della televisione americana. Non male per un novellino alla sua prima esperienza nel maneggiare uno show tutto suo. Se la NBC non può perdere i preziosi introiti pubblicitari, è bene comunque che faccia attentamente i suoi conti. Non le conviene certo perdere nemmeno un talento come quello di Letterman. I vertici della NBC, dunque, non si sbarazzano di Letterman, bensì lo riciclano. Dal 1 febbraio 1982 va in onda con un nuovo nome e una nuova collocazione in palinsesto un altro talk show, il Late Night with David Letterman. Il primo ospite è la star del Saturday Night Live, Bill Murray. La trasmissione è un felice miscuglio di interviste, rubriche assurde, comicità surreale e spiazzante. In questo strabordante caos creativo non può non esserci spazio anche per Jay Leno, grande amico di Letterman fin dai tempi delle esibizioni di stand-up al Comedy Store. Beh, io e Jay ci conosciamo da una vita. La nostra storia insieme è iniziata quando eravamo dei ragazzini, praticamente. Leno, per volere del conduttore in persona, diventa una presenza fissa al Late Night with David Letterman. A partire all'incirca dalla metà degli anni Ottanta, cura con regolarità una divertentissima rubrica di critica televisiva. Arriva, si siede su una delle poltroncine accanto alla scrivania di Letterman, sfodera una copia di TV Guide, celeberrimo settimanale americano equiparabile al nostro TV Sorrisi e Canzoni, e inizia una spassosa requisitoria sull'idiozia di certi programmi del piccolo schermo. Beh, sono contento che lo sciopero degli sceneggiatori sia finito. Ti immagini che cosa ne sarebbe stato dell'A-Team senza sceneggiatori? Solo un ammasso di incidenti stradali e violenza immotivata. Leno ne ha per tutti, dalle serie muscolose piene di esplosioni e scazzottate ai drammoni ospedalieri, alle saghe familiari il cui fulcro, a suo dire, sono sempre le pestifere sorelle gemelle, una bionda e una bruna, una buona e una cattiva. In quei momenti, Leno e Letterman si comportano da vecchi amici, palleggiandosi le battute l'uno con l'altro. David sembra avere tutto l'interesse di valorizzare il talento del suo compare del Comedy Store. James Douglas Muir Leno, chiamato da tutti affettuosamente Jay, nasce il 28 aprile 1950 a New Rochelle, nello stato di New York, all'estremo est degli Stati Uniti, affacciato sull'Oceano Atlantico. Suo padre, Angelo, ha origini italiane. A inizio Novecento i suoi genitori erano emigrati a New York da Flumery, un paesino della provincia di Avellino. Come molti altri italiani partiti in cerca di migliore fortuna, i nonni di Leno riuscirono a garantire ai propri figli un tenore di vita più alto di quello che avrebbero avuto restando in patria. Angelo Leno, ad esempio, fa un mestiere che dà da mangiare a moltissimi americani non necessariamente figli di emigrati. Vende assicurazioni. Mio padre era un rappresentante. I suoi clienti erano il suo pubblico. Lavorava per una ditta che vendeva polizze assicurative. Quando ha iniziato, ha chiesto al suo principale: «Senta, qual è il posto più difficile per vendere assicurazioni?» E il suo capo gli dice: «Harlem. La gente di colore non compra mai assicurazioni». Mio padre, che aveva una gran faccia tosta per essere al suo primo giorno di lavoro, se ne esce dicendo: «Beh, perché diamine i neri non devono volere un'assicurazione?» È uscito di lì e è andato a vendere assicurazioni ad Harlem. Ora lo sappiamo, la faccia tosta a Leno l'ha ereditata dal padre. In a little while, whistle a tune of gladness. Bloom never was in style. The future's brighter when hearts are lighter. So smile, smile, smile. Già da piccolo Jay si innamora degli eroi del piccolo schermo, non supereroi mascherati che sconfiggono il male grazie a chissà quali superpoteri, ma persone di tutti i giorni, dall'aspetto quotidiano, che attraverso il tubo catodico riescono a riempire le giornate di milioni di telespettatori, a farli ridere, a tener loro compagnia. Adoravo l'Ed Sullivan Show, poi mi piacevano Jack Benny e naturalmente Johnny Carson. Mi piacevano i comici che avevano l'aria di essere delle persone normali, ecco. Il loro modo di fare, la loro scioltezza e dimestichezza nei confronti del pubblico lo affascina a tal punto da spingerlo a imitarli. Jay è un bambino spontaneo e un po' paffutello, che compensa la sfortuna di avere un viso da cartone animato elargendo ai compagni quintali di simpatia. Il suo mento è incredibilmente pronunciato e i microscopici occhietti azzurrissimi incastonati in un viso troppo grande ne fanno una figura buffa, quasi caricaturale. Alle scuole elementari, durante un colloquio con i genitori, un'insegnante esasperata tuona: «Se Jay passasse facendo i compiti la stessa quantità di tempo che passa cercando di far ridere i suoi compagni, beh, signori, avremmo davanti a noi un vero genio». Fare i compiti, al contrario, non è una delle sue attività preferite. Jay è dislessico e non ha molta familiarità con le parole scritte sui libri o sui quaderni. Fa fatica a leggerle, riconosce le lettere, ma non sempre riesce ad assemblarle per formare parole di senso compiuto. Meglio parlare, esibirsi davanti a delle persone, piuttosto che leggere. Per lui il confronto con un pubblico è una specie di vocazione. «Per me la comicità deve essere a portata di tutti. Non bisogna essere snob nella comicità». È praticamente inevitabile per Leno, così come lo è stato per Letterman, finire sul palcoscenico del Comedy Store di Los Angeles, cercando sera dopo sera di strappare sorrisi a degli sconosciuti. Instancabile, si esibisce 300 sere all'anno, aspettando che qualcuno lo noti, che qualcuno si accorga del suo potenziale. Di certo del suo potenziale si accorge l'amico David Letterman, già sotto contratto con il network NBC. È così che Jay diventa un assiduo frequentatore del Late Night with David Letterman. «Negli anni Ottanta, quando andavo da Letterman, facevo un tipo di comicità molto tesa». I due, divisi dalla scrivania dietro cui Letterman sta seduto nelle vesti di conduttore, si esibiscono in duetti e scambi comici esilaranti per tutto il corso degli anni Ottanta. A partire dal 1987, Jay diventa ospite fisso anche del Tonight Show starring Johnny Carson, l'ormai mitico programma che va in onda con grande successo dal 1962. Una presenza fissa, quella di Leno da Carson, che evidentemente piace molto ai vertici della NBC. 23 maggio 1991, Carnegie Hall, Manhattan. È un pomeriggio di aria frizzante, di primavera, quello in cui si tiene l'annuale presentazione del palinsesto della NBC. Ed è proprio in questa occasione che Johnny Carson, il grande veterano del Tonight Show, dopo 30 anni di onorato servizio sul piccolo schermo, decide di andare in pensione. Nella sala gremita di addetti ai lavori si mormora un solo nome per il suo possibile sostituto, quello di David Letterman. È il più logico, oltre che il più gettonato. Da 10 anni ormai Letterman conduce con grande successo il Late Night, che va in onda immediatamente dopo Carson. Per il suo lavoro magistrale il programma è stato nominato al Prime Time Emmy Awards per una decina di volte consecutive nella categoria Outstanding Variety, Music or Comedy Series, vincendone la metà. Tutti si aspettano che Letterman sia il legittimo, inevitabile successore di Carson, di cui è stato in precedenza il pupillo. Tutti, evidentemente, sbagliano. Io sono innanzitutto un comico. Se poi qualcuno mi chiede di condurre uno show su un grande network, ben venga, lo prendo volentieri. Come secondo lavoro. Il secondo lavoro di Jay Leno, secondo i vertici della NBC, d'ora in poi, sarà quello di condurre il Tonight Show che fu di Johnny Carson. Una decisione a dir poco inaspettata, è destinata a dar vita a una vera e propria guerra. I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens. So I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And the next time, they're gonna be looking at you. Destini incrociati. Well, why don't I just start off with a question here? Partiamo subito con una domanda. Ma quanto sei incazzato? Just how pissed off are you? È il 1991 e lo storico conduttore Johnny Carson, fra le risate generali del pubblico, chiede a David Letterman di commentare la decisione della NBC di affidare la conduzione del suo prestigioso Tonight Show a Jay Leno anziché a lui, che ne sembrava l'ovvio e naturale continuatore. Letterman, da bravo comico di lungo corso, ci scherza su ininterrottamente. Because as you know, a friend of yours is taking over here next May and you. I'm sorry, what did you say? I said. David finge di non essere al corrente della decisione dei vertici della NBC, ma naturalmente lo è e come. E non ne è certamente entusiasta dopo più di un decennio di successi che credeva sarebbero stati giustamente ricompensati. Jay Leno, oltretutto, era un suo amico. Era stato proprio Letterman qualche anno prima a introdurlo in quegli stessi studi televisivi che ora parrebbero diventati il suo regno esclusivo. I'm not angry. I'm not angry at NBC about this. Non sono arrabbiato con l'NBC per questo. Non sono arrabbiato nemmeno con Jay Leno per questo. Non sono arrabbiato con il Tonight Show, né tantomeno con te. Se non fosse stato per te, io non avrei mai avuto uno show tutto mio. Probabilmente non avrei nemmeno mai avuto un paio di calzini tutti miei. La riconoscenza di Letterman nei confronti del suo mentore Johnny Carson non ha nulla a che vedere con la rabbia che gli monta dentro e che cerca di nascondere a colpi di ironia e diplomazia. Il 25 maggio del 1992, che a David piaccia o meno, il suo ex amico Jay prende il timone di quello che fu il Tonight Show starring Johnny Carson e che d'ora in avanti sarà The Tonight Show with Jay Leno. Si chiudono così un'epoca, un'amicizia e persino uno stile o un modo di fare comicità. Jay Leno si sente troppo maturo per continuare sulla strada percorsa fino a quel momento. Una volta, quando lavoravo assieme a Letterman, la mia comicità era davvero affilata. Poi mi hanno affidato il Tonight Show e ho smesso di essere così tagliente. C'è una bella differenza a fare uno show una volta ogni tanto e uno tutti i santi giorni. Quando diventi più vecchio e famoso, all'improvviso ti sembra stupido il fatto di passare la vita ad essere tagliente. Diventi più popolare, più comprensibile. È naturale che sia così. Sarà anche un'evoluzione naturale, ma lo stile comico di Leno, a detta di pubblico e critica, ne risente un po' troppo. Se lo stile comico di Leno si fa via via meno pungente e più accomodante, quello di Letterman, per contrasto e altrettanto naturale reazione, diventa ancora più affilato e bruciante. E non è unicamente questione di stile, ma di opportunità. Non solo Letterman cambia il suo atteggiamento nei confronti del traditore Leno, ma cambia direttamente e drasticamente canale. Accetta l'offerta del network CBS di spostare il suo show notturno sulle loro frequenze. E così, a partire dall'agosto del 1993, il Late Show with David Letterman diventa il principale concorrente e acerrimo nemico del Tonight Show with Jay Leno. Ormai in onda da 20 anni, 30 se sommati a quelli passati alla NBC prima del litigio, lo show di Letterman non risparmia mai battute caustiche sul suo diretto rivale. Listen to this. Happy birthday to Jay Leno, 61 years old today. Happy birthday, Jay. Jay, of course, one of the few tyrants still alive. Jay Leno sembra sempre incassare e non voler rispondere a parole, ma replica nel corso degli anni a colpi di ascolti. Se il pubblico di Letterman è più attento e sofisticato, quello di Leno, più popolare, è anche più numeroso. Non puoi essere incazzato ogni sera. Tutti hanno una vita difficile. Sfogarsi è sacrosanto, per carità. Ma quando inizi ad essere un giovanotto di mezza età... Io avevo 42 anni quando sono approdato alla conduzione del Tonight Show. E dai una buona posizione, un ottimo stipendio... Puoi anche smetterla di fare la posa dell'incazzoso. Leno rivendica la bontà della sua scelta di essere meno tagliente e più accessibile. Anche Letterman, nel corso degli anni, finisce con l'ammorbidirsi su determinate questioni, forse anche in conseguenza dello spiacevole evento che gli capita nel gennaio del 2000. Wait till you hear what happened to me. You are not going to believe this. I've been away for a while. Yeah. While I was gone, I had quintuple bypass surgery on my heart. Oh! Plus, I got a haircut. Yeah. Un quintuplo bypass cardiaco dimostra senza alcuna ombra di dubbio che David Letterman, a dispetto della sua lingua affilata, possiede un cuore. Intervistato da Johnny Carson quando ancora il suo Tonight Show andava in onda sulla NBC, Letterman dimostra parecchia modestia, o più probabilmente parecchia autoironia. Riesci a immaginarti? Il prossimo maggio io festeggio 30 anni di questo show e smetto. Tu riesci a immaginare te stesso fra 30 anni a fare ancora il tuo show? Eppure, decenni dopo, Letterman è ancora qui a festeggiare i suoi 30 anni in video, cosa che ha fatto con una puntata speciale lo scorso febbraio. E per chiudere il cerchio, nel novembre 2011, si è regalato anche il sorpasso su Jay Leno, dopo anni e anni di supremazia del rivale nei ratings giornalieri. La battaglia è stata vinta, ma Letterman lo sa bene, la guerra non è ancora finita. Signaling the distance to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at stopping.